Sì, tu. tessuto, insieme liberi incatenati, fili sottili nel sole del tessuto, sempre una risposta che ti lascia fuori da quella porta, è una risposta che apre una porta, come se importasse a te. Sottili fili sono una risposta.